America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. This race will narrow down eventually to two candidates, and when it does, it'll be me and we'll defeat Romney. Sono reduce da una puntata di un paio di giorni in South Carolina, ho girato un po' lo Stato, ho seguito i candidati, ho chiacchierato con Santorum, quello che vi ho fatto sentire è uno stralcio di una lunga conversazione che ho avuto con Rick Santorum, ve ne farò ascoltare un altro un po' più in là, ed era, diciamo, una conversazione in questo caso sul fronte politico. La South Carolina diventa improvvisamente un punto di riferimento importante per queste elezioni, non tanto per Mitt Romney quanto per la destra. Diventa un banco di prova su cui un personaggio come Rick Santorum o vince o rischia di uscire, e in questo intervento che vi ho fatto sentire Santorum mi spiega qual è la strategia repubblicana. Non è vero che c'è soltanto Romney come inevitabile candidato. La strategia repubblicana dal punto di vista della destra è quella di trovare il candidato che ancora non si è trovato. C'è una battaglia in corso, la battaglia in corso oggi è tra Perry, tra Gingrich e tra Santorum. C'è poi il, chiamiamolo cavallo pazzo, Ron Paul, che non è propriamente della destra, è più libertario. Di questi tre sicuramente Perry si ritirerà, restano Santorum e Gingrich. E dunque Santorum cosa dice in questa intervista che ho fatto con lui? Che a un certo punto tra la South Carolina e la Florida emergerà un candidato più forte a destra che costringerà l'altro al ritiro. Dal suo punto di vista quel candidato più forte sarà lui, sarà Santorum. E dunque Gingrich si ritirerà, anche perché secondo lui Gingrich, e su questo devo dire forse ha ragione, non ha nessuna possibilità di farcela contro Obama a novembre. Dal punto di vista di Gingrich succederà esattamente il contrario. Questo sviluppo non è secondario, perché i due candidati insieme raccolgono intorno al 38-40-42% dei voti repubblicani. E dunque in questa strada verso la nomination, che è ancora molto lunga, perché non dimentichiamo che abbiamo fatto soltanto due stati e ce ne saranno due da qui alla fine del mese, quindi quattro stati su 50, se emerge un candidato forte a destra, beh, ecco che Romney potrebbe trovarsi in difficoltà. Per questo Romney corre, cerca di incassare subito i quattro stati, non l'ha mai fatto nessuno, e di costringere gli altri a ritirarsi anzitempo. Il mio pronostico è che questo non succederà e ci sarà prima o poi uno scontro piuttosto duro tra un esponente della destra, Mitt Romney, e poi il terzo incomodo, Ron Paul, che continuerà a resistere fino in fondo. We refer to it as European socialism, not the the strict definition of socialism, but more of a heavy state control of things. Ma uno dei temi di fondo emersi in questa campagna elettorale riguarda l'Europa. Ve ne ho già parlato in un'altra trasmissione. Nella mia chiacchierata con Santorum si è parlato di Europa. Avete sentito questo suo intervento? Lui dice in sostanza: non c'è dubbio che in Europa vi siano governi di tipo socialista e programmi governativi che non so se posso chiamare socialisti, ma a cui generalmente ci si riferisce come tali. Qui in America lo chiamiamo socialismo europeo, ossia parliamo di stati fortemente controllati dai governi, ci sono tasse molto alte, non c'è quella libertà economica che abbiamo in America, e questa è una differenza fondamentale tra l'Europa e gli Stati Uniti. Io personalmente credo nel libero mercato e nel modo in cui facciamo le cose qui. Una cosa molto simile ha detto Romney, sentiamolo. President Obama wants to fundamentally transform America. He wants to turn America into a European style social welfare state. Lo ha detto anche Gingrich più volte, dice: noi non è che non aiutiamo la gente, ma li aiutiamo soltanto se aiutano loro stessi, si devono aiutare e poi riceveranno anche un aiuto da noi. Quindi emerge un messaggio che è mirato contro Barack Obama. Ecco, di questa Europa che è al centro dell'attenzione, nel senso negativo del termine, c'è stato un editoriale di Nicholas Kristof domenica scorsa sul New York Times in cui dice: ma perché l'Europa è una parola sporca? Beh, perché non soltanto per la crisi che purtroppo stiamo vivendo, ma perché c'è proprio questa differenza di fondo che è percepita qua in America. Di questo parlo con Claudio Gatti, qui con noi questa mattina ai microfoni di America 24. Buongiorno Claudio. Buongiorno a voi. Allora Claudio, qui si parla di Europa. L'Europa diventa Belzebù in qualche modo. Cioè si dice che l'Europa è troppo statalista rispetto ad esempio agli Stati Uniti d'America. Qual è secondo te dal punto di vista americano la visione che c'è dell'Europa? Beh, parliamo della pancia dell'America, parliamo dell'America nata dalla cultura della frontiera. Per questa America l'Europa è troppo socialista, perché ha una cultura del fai da te, dell'avventura senza protezione, del salto senza paracadute. Ecco, ci sono in effetti dei valori che emergono e delle differenze di fondo che poi riflettono i due sistemi. Per esempio, da noi in Europa il fallimento, fallire, è considerato un crimine, un peccato, una cosa che addirittura penalmente può essere perseguita. In America invece il fallimento è considerato come qualcuno che ci ha provato, che gli è andata male e comunque buon per lui. Parliamo di fallimento di una missione, non di fallimenti fraudolenti, ovviamente. Ecco, condividi che questo, per esempio, è uno degli aspetti di differenza, e quali altri vedi, per esempio, in queste differenze di umore? Ma non c'è dubbio, ma anche la mobilità del paese. L'America è un paese in cui ci si sposta, se non si riesce in uno stato ci si trasferisce in un altro. È un paese in cui si cambia lavoro anche se si ha mezza età. È un paese in cui il rinnovamento e il cambiamento è diffuso, è accettato, è un valore positivo. In Europa si fa molto più fatica ad accettare questo tipo di atteggiamento che è aperto al cambiamento, al rinnovamento continuo. Ecco, e di questo devo dire si parla molto. Io poi non credo che Barack Obama sia così statalista e socialista dal punto di vista europeo, nel senso che poi è un presidente che indubbiamente ha aumentato il ruolo dello Stato, però resta un presidente che tutela il settore privato e che comunque si è impegnato a eliminare tutta una serie di duplicazioni, a ridurre dei ministeri, ha fatto questo consolidamento dei ministeri degli esteri. Quindi, ecco, secondo te è vero che Barack Obama è statalista o no? Beh, io penso che la situazione che ha ereditato Barack Obama ha portato la sua amministrazione a delle scelte che possono essere certamente viste come stataliste. Non ci dimentichiamo l'intervento sulla General Motors, l'intervento sull'industria automobilistica in generale, anche la Chrysler. Il governo se n'è fatto carico, è una cosa straordinaria per gli Stati Uniti, dove invece è normale lasciare andare in bancarotta le grandi aziende. Quindi stiamo parlando più di un escamotage elettorale, questo portare l'Europa come esempio di percorso sbagliato in cui si sta avviando l'America di Obama. Questo senza dubbio, perché come dicevi tu, l'Europa per la destra repubblicana è un po' come quasi la Russia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Lizzy Grant, nome d'arte Lana Del Rey, ha diffuso il video del suo nuovo single Born to Die. Il brano è contenuto nell'album omonimo che uscirà nei negozi a fine gennaio. Lana Del Rey, Born to Die. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.